Il punto di Stefano Folli. Con la riforma del Senato ormai in vista del traguardo, ma è solo il 25% del suo cammino parlamentare, una cosa comincia a essere chiara. Dopo le vacanze i conti pubblici dovranno essere corretti di un certo numero di miliardi. Quanti ancora non si sa, anche se le previsioni non sono incoraggianti. Ne capiremo di più domani, quando il Ministro dell'Economia riferirà in Parlamento. Intanto però notiamo che il Presidente del Consiglio per la prima volta fa capire che in autunno ci sarà una manovra economica. Fino a ieri la escludeva, oggi afferma che se ci sarà bisogno di intervenire non lo faremo con nuove tasse. In sostanza i conti andranno riequilibrati, ma i soldi non arriveranno, dice Renzi, dalle tasse. È un punto importante se si manterrà fede a questo impegno. Vuol dire tagli, privatizzazioni, liberalizzazioni. Ma occorre essere molto credibili. Il rischio di finire sotto tutela internazionale, la famosa troica, è tutt'altro che remoto, e il caso Cottarelli è lì a ricordarlo. Non a caso il commissario alla spesa pubblica che ha alzato bandiera bianca proveniva proprio dal Fondo Monetario.